Essere e benessere di Nicoletta Carbone. So che molti di voi stanno guidando. Bene, continuate a guardare la strada, benissimo, ma se ce la fate, provate a valutare il vostro benessere visivo. Guidare stanca e stressa anche i nostri occhi. Ne parliamo oggi insieme al professor Lucio Buratto, direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico di Milano, che è qui in studio con me. Buongiorno, professore. Buongiorno, Nicoletta, buongiorno. Professore, le informazioni necessarie alla guida sono fornite per il 90% dei nostri occhi. Vederci bene per chi guida è fondamentale, però il processo visivo è influenzato da molti fattori. Beh, certamente. La luce, innanzitutto, deve essere una luce buona. Se uno guida di notte, la luce è scarsa, specialmente se non ha una buona illuminazione dei fanali, per esempio, questo può essere un grosso problema. Ma ci sono mille altri fattori, come la nebbia, la pioggia e altri fattori, diciamo, atmosferici. Ma soprattutto sono gli occhi che devono essere in ordine per poter guidare bene. Guidarevi stanca quando avete difficoltà? Di notte, quando entrate in galleria, quando vi sparano gli abbaglianti, quando piove, al crepuscolo. Però ditemi, cari amici, anche se portate occhiali, lenti a contatto, se vi siete sottoposti di recente ad un intervento di chirurgia refrattiva. Professor Buratto, ci servono altre indicazioni? A chi vogliamo allargare l'invito a chiamarci al nostro numero verde, che vi ricordo è 800 24 00 24. Professore. Beh, l'occhiale deve essere in ordine, perché se l'occhiale non ha le lenti giuste è ovvio che uno fa fatica a vedere. Se poi l'occhiale è sporco, uno fa fatica a vedere. Se l'occhiale è storto, uno fa fatica a vedere. Se il parabrezza non è pulito, si fa fatica. Quindi le condizioni che possono rendere la guida faticosa sono molteplici. Certamente poi se uno ha anche dei problemi, tipo che è stato operato, vuoi di cataratta, vuoi di miopia, possono esserci degli altri piccoli problemi diversi comunque, diciamo, tendenzialmente da questi. Che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione. Intanto voglio leggervi alcuni messaggi che ci sono arrivati su Facebook. Rossella ci scrive: al buio fatico tantissimo a guidare, non so se dipende solo dal fatto che sono donna. No, di solito sono più i miopi che fanno fatica a guidare di notte, un po' perché la loro retina, cioè la struttura interna dell'occhio, è meno, diciamo, sensibile, e un po' perché la miopia di notte tende ad aumentare. E comunque ci sono delle persone che fanno più fatica di altre persone proprio per costituzione, diciamo, del proprio occhio. Anche Maria Antonietta: per me è stressante guidare al buio, se poi piove, mamma mia, baby birba, guido con gli occhiali, mi disturbano i cambiamenti rapidi della luce, tipo le gallerie in pieno giorno. Questi disturbano tutti, c'è poco da fare, specialmente se poi uno ha delle lenti colorate prima di entrare in galleria, poi entra in galleria, già che le gallerie nostre sono poco illuminate e per di più con le pareti scure spesso, quindi non aiutano. Non aiutano certamente. Poi evidentemente uno dovrebbe sollevarsi l'occhiale, ma se ha un difetto visivo e si solleva l'occhiale finisce che non vede bene. Allora, se tiene l'occhiale da sole e ha il difetto visivo è nei guai comunque. C'è chi ci vede bene, c'è chi pensa di vederci bene, insomma il problema è che un automobilista su 10 non sa di avere problemi di vista. Secondo una ricerca condotta dall'Università Bicocca di Milano, su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 960 persone, il 18,6% dei volontari sottoposto ai test ha rivelato un'acutezza visiva inadeguata, l'1,9% una visione cromatica inadatta, il 2,3% un campo visivo al di fuori dei limiti della norma, il 24,5% una visione notturna insufficiente e il 3,2% una visione binoculare impropria. Tutti, naturalmente, erano regolarmente muniti di patente di guida. In linea con noi il professor Silvio Maffioletti, coordinatore del progetto di ricerca sulla visione e la sicurezza stradale del Dipartimento di Scienze dei Materiali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e coordinatore della ricerca di cui abbiamo appena sentito i dati, promossa dalla Commissione Difesa Vista. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professor Buratto. Professore, rischiamo la bocciatura perché molti di noi si mettono al volante, pensano di è caduto il professor Maffioletti, ma professor Buratto, abbiamo sentito dei termini un po' difficili citati in questa ricerca: acutezza visiva, visione cromatica, campo visivo. Che cosa sono? Acutezza visiva è quando si misura, diciamo, la capacità di vedere. Di solito l'oculista ha una tabella dove ci sono delle lettere e la persona si mette a una certa distanza e si misura appunto quanto vede. È un sistema, diciamo, per avere un'idea di quello che è la funzione visiva. La funzione visiva, questa è la cosa più importante. L'altra cosa importante è sicuramente la sensibilità al contrasto, che non è stata nominata. Sensibilità al contrasto vuol dire la capacità di distinguere due oggetti simili a una certa distanza. Di sera, verso le 5, le 6, quando c'è un po' di penombra, si fa fatica a vedere bene certe cose, mentre si vedono bene per esempio di giorno. Quindi di sera la sensibilità al contrasto, ecco, quindi l'ideale cala. È dare l'appuntamento a un fidanzato verso sera, così ci dipende. Vede o non ci vede. Mentre la visione cromatica è la percezione dei colori. Diciamo che questo è forse meno importante, perché chi ha un problema di percezione dei colori adotta poi delle metodiche sue personali per individuare i colori. Io avevo un paziente una volta che faceva il selezionatore di sete per una grossa casa di moda e non vedeva i colori, per esempio. Andava a naso. Andava a esperienza. 800 24 00 24, se volete intervenire alla nostra trasmissione, cerchiamo di capire quanto la guida ci stressa, se ci sono dei segnali che possono farci capire che avremo bisogno di controlli, ad esempio, professor Buratto. Noi ci controlliamo raramente, anche le persone che devono correggere con lenti o con occhiali un difetto visivo non sempre si sottopongono a controlli regolari, quindi si rischia un po'. Questo è verissimo. Questa è un po' una regola un po' di tutta la medicina. La prevenzione è sempre la cosa migliore piuttosto che curare, ma anche senza essere malati. Se anche uno ha semplicemente un difetto visivo, però questo difetto visivo può modificarsi nel tempo, quindi se uno non fa dei controlli periodici, non ha l'occhiale giusto, poi quindi si ha fatica a guidare. Se poi si tiene conto che spesso ci sono dei problemi lacrimali nelle persone, questi aggiungono disturbo a disturbo. È ritornato in linea il professor Maffioletti. Professore, abbiamo... Professore? Eccomi. Eccola, è tornato con noi. Allora, i dati non sono rassicuranti. Sembra che il 30% di chi guida non abbia le capacità visive necessarie per farlo. E molti incidenti imputati nei verbali delle forze dell'ordine a comportamenti come guida distratto, indecisa, ma anche il numero di quelli dovuti ai segnali di stop non rispettati, alle precedenze a destra non osservate, nonché gli investimenti di pedoni sulle strisce. Potrei continuare. Insomma, tante volte non vediamo perché proprio i nostri occhi non sono messi nella condizione di svolgere adeguatamente il loro compito. Sì, in effetti dai verbali ACI-ISTAT risulta che proprio il 59% degli incidenti stradali hanno in qualche modo, diretto o indiretto, coinvolto la visione. E quando abbiamo fatto anche noi questo tipo di indagine commissionata dalla Commissione di Difesa Vista, siamo stati abbastanza sorpresi dal vedere tante persone che avevano problemi visivi, di acutezza visiva, come dicevamo prima, o altro, eppure circolavano serenamente, tranquillamente. Quindi c'è una discrepanza tra il fatto che l'esame della patente rassicuri molto le persone, cioè l'italiano che ha superato l'esame della patente si ritiene visivamente a posto, e invece il dato che uno su tre non è così. Professor Maffioletti, nella vostra ricerca avete anche valutato i motivi di disattenzione di quando siamo alla guida, perché gli occhi sono impegnati sia a guardare la strada, ma non solo. Abbiamo preso in considerazione anche aspetti più legati all'attenzione visiva, che sono complementari agli aspetti di cui parlava il professor Buratto, relativi ad eventuali problemi, occhiali non corretti o anche patologie oculari che portano a delle problematiche serie. Noi abbiamo preso in considerazione l'attenzione visiva, che è: mentre faccio un compito, eseguo altri, viene subito alla mente il cellulare o il navigatore, quanta attenzione mi porta via e quanto mi mette in difficoltà nel compito primario. Ed è emerso che anche qui ci sono persone che sono in grado di eseguire il doppio compito con una relativa disinvoltura, persone che assolutamente vanno in difficoltà ed eseguono malissimo il primo compito, e teniamo conto che il primo compito è guidare, quindi è essere connessi alla strada, non accade. Grazie al professor Maffioletti, grazie per essere stato con noi, la saluto e la ringrazio, buona guida, grazie. Buona vista. Massimo dalla provincia di Lucca, buongiorno Massimo. Buongiorno a voi, buon lavoro e complimenti per le trasmissioni che fate. Niente, io volevo fare una domanda semplice. Dunque, a seguito di un'operazione di cataratta dovuta, va bene, a una cataratta posteriore per il cortisone che prendevo, mi hanno messo una lente multifocale. con questa lente multifocale praticamente la sera con le luci ho delle difficoltà, diciamo, di aloni o comunque cose varie. Volevo sapere se c'è un rimedio e cosa poter fare. Certo, gli aloni. Posso stare in linea perché ho spento la radio e sono fuori. Bravo, bravo Massimo. Allora, professor Buratto, gli aloni, guardi che sono fastidiosissimi. Sì, beh, questo è un caso un po' particolare perché le lenti multifocali sono fatte per vedere da lontano e anche da vicino. Hanno qualche inconveniente visivo, ma abbastanza limitato. Il problema è quando la lente è solo in un occhio. Allora si nota molto la differenza fra un occhio e l'altro. Queste lenti funzionano meglio a coppia sicuramente. Hanno dei grossi vantaggi perché consentono alla persona di essere indipendente dall'occhiale, ma quando uno propone, almeno quando noi proponiamo una lente multifocale, diciamo anche che ci possono essere degli inconvenienti in visione notturna. Questi inconvenienti però il tempo di solito li ammortizza se sono bilaterali, cioè se sono tutti e due gli occhi operati. Se solo uno è più difficile. E il sistema per eliminare questi disturbi direi che non c'è, perché è proprio il cervello riceve due immagini, una diciamo normale da un occhio e una diciamo diversa dall'altro, e quindi fa fatica a smaltirle diciamo in maniera appropriata. Quindi oggi approfittiamo della trasmissione per fare una sorta di autotest del nostro benessere visivo. Concentriamoci quando siamo alla guida, ci sono tante situazioni in cui avvertiamo che siamo a disagio, ma è anche una buona occasione per capire, no, come e perché correggere i disturbi visivi, quali rischi tra virgolette si corrono e che cosa, quali effetti collaterali dobbiamo mettere in conto, professor Buratto. Noi abbiamo due sostanzialmente tipi di difetti visivi. Uno sono quelli diciamo che comportano l'uso di occhiali, tipo la miopia, l'astigmatismo, ipermetropia, e questi con la metodologia attuale dei laser, il laser a femtosecondi e il laser ECM, direi che stiamo ottenendo dei risultati veramente molto buoni, assolutamente diversi da quelli che erano i risultati ottenibili 10 o 15 anni fa, in cui effettivamente rimanevano degli effetti secondari che potevano essere anche fastidiosi per la guida. Adesso i nostri pazienti direi che possono guidare con molta tranquillità. Ci sono gli automobilisti che sono nati per farti imbestialire, sono quelli che da dietro non vedi neanche la testa, vedi solo due braccine abbarbicate al volante e vanno avanti in mezzo alla strada piano, sono pieni di tic. Controllano sempre se il freno a mano è tirato. Adesso controlli, è 8 volte che controlli, non è tirato. C'hanno la moglie accanto che c'ha sempre un triangolino di impermeabile fuori dalla portiera. Dove tenete le mani, la testa, le spalle in questo momento? Voi che guidate, le tenete appoggiate alla schienale o leggermente distanziate? Allora misuratevi, anzi ci misuriamo insieme con l'aiuto di Emilio De Leidi, caporedattore di Quattro Ruote. Emilio, benvenuto. Eccomi, buongiorno, ciao. Allora Emilio, noi saliamo in macchina con te, anzi guardaci mentre noi siamo al volante. Intanto per esempio come avete regolato il poggiatesta, se l'avete regolato per appoggiarci la testa già non ci siamo, perché la sua funzione non è quella di sostenere la testa che deve stare su da sola, ma di proteggerci nel momento in cui un urto, un tamponamento fa sì che la testa venga proiettata violentemente all'indietro esercitando una forza sulle vertebre cervicali e quindi creando dei pericoli di lesioni gravi. Allora il poggiatesta deve stare distanziato, non deve essere un sostegno per la testa, e se ci accorgiamo che la testa invece si appoggia troppo all'indietro, vuol dire che magari stiamo guidando da 2-3 ore, siamo un po' stanchi e cerchiamo una posizione di riposo, magari è meglio piuttosto fermarsi 10 minuti e prendere una boccata d'aria e un caffè. Quindi già se ci appoggiamo al poggiatesta siamo comodi, ma abbiamo sbagliato. Scendiamo alle spalle, molti di noi dopo ore e ore alla guida sentono la spalle, la schiena un po' tesi. Eh sì, le spalle invece devono sempre stare appoggiate correttamente allo schienale del sedile. Anche in questo caso, se per esempio le stacchiamo troppo perché dobbiamo fare una curva aggrappandoci al volante, commettiamo un errore perché abbiamo una posizione che ci permette di controllare meno il comportamento dinamico della vettura e abbiamo anche una tensione dei muscoli della spalla che devono venire in avanti, devono assecondare il movimento del braccio. In questo caso l'errore sta la sedile che probabilmente è troppo lontano dal volante. E molti amano guidare con le braccia distese come se fossero su una macchina da corsa. In realtà, se noi guardiamo poi i piloti, soprattutto quelli dell'auto da rally che sono più vicini a quelle stradali, hanno sempre i gomiti un pochino inclinati. Questo significa che il sedile è più vicino al volante e che le mani non si staccano mai dal volante, la spalla non si stacca mai dal sedile quando si affronta una curva. Noi abbiamo degli atteggiamenti quando siamo alla guida che possono sottolineare una nostra cattiva postura, ad esempio quando appoggiamo il braccio al bracciolo oppure sul bordo del finestrino. Certo, questo per esempio è un sintomo tipico di stanchezza, no? Cioè vuol dire che abbiamo le braccia troppo tese, siamo ancora una volta un po' troppo lontani dal volante col sedile e quindi ci affatichiamo di più. Spesso per esempio si avvertono dei formicolii nelle braccia quando per esempio la circolazione non è ottimale, proprio perché lo si tiene in posizione troppo orizzontale. Allora, tutti questi controlli vengono fatti idealmente prima di mettersi in movimento per trovare una posizione di guida corretta. Poi naturalmente magari si sbaglia un attimo nella messa a punto e dopo un'ora, due ore, tre ore di guida questi segnali, questi piccoli sintomi di affaticamento fanno capire che c'è qualcosa che non va e si possono fare degli aggiustamenti grazie al fatto che oggi le automobili già mediamente hanno comunque delle posizioni di possibilità di correzione della posizione maggiori rispetto al passato. Quindi il consiglio sembra banale, ma prima di acquistare un'automobile provatela, saliteci sopra, fatevi un giro. Questo perché sono un po' come le scarpe. È bravissima, perché l'automobile deve calzare come le scarpe, perché una corretta posizione significa più sicurezza, perché si padroneggia meglio il veicolo, e più sicurezza perché ci si stanca di meno e quindi si è meno faticati, più concentrati e si pone più attenzione sui pericoli della strada. Grazie ad Emilio De Leidi, caporedattore di Quattro Ruote, per essere stato con noi. Buona giornata Emilio. Un saluto a voi l'ascoltatore. Gianni da Latina, buongiorno a lei. Sta guidando? Sì, sto guidando, ma è normale. No, ma sono con l'auricolare in tutta sicurezza. Bravo. Senta Gianni, lei è seduto bene, perfetto, tiene le mani giuste sul volante, le braccia... Sì, ho fatto dei corsi di guida sicura. E allora, qua c'è un maestro. In linea con i consigli dell'esperto. Bravissimo. Gianni, promosso, ma quanto a vista lei vede bene? Dunque, grazie dell'opportunità. Io ho 43 anni, guido molto e ho fatto delle visite dove mi dicono che sono leggermente ipermetrope, però non c'è... No. Non, Gianni è caduto forse, ma professor Buratto, gli ipermetropi, che cosa rischiano di diverso rispetto ai miopi? No, l'ipermetrope vede di solito abbastanza bene lontano, soprattutto se ha un difetto leggero. Al limite può aggiungere l'occhiale per vedere meglio, per stancarsi meno, diciamo, ma l'ipermetrope di solito per lontano ha una vista buona. Gianni, è ancora in linea con noi? Sì, grazie. Sì. La sua domanda qual era? Sono ipermetrope? Peggiorerò? Però il problema è quando leggo che mi viene lo sconforto e lì ho problemi, devo usare un occhiale con un grado e mezzo. Però la domanda era anche un'altra, nel senso io quando guido uso un occhiale da sole leggero con un po' giallino che mi fa vedere di più il rosso e il verde, almeno penso, antiriflesso e fotocromatico. Non so, faccio bene, cosa mi devo aspettare per il futuro? Perché la preoccupazione è un po' lì, insomma, gli oculisti dicono sì, per adesso vai bene, preparati al peggio. Anche gli oculisti cosa possono dire? No, professor Buratto, prima dei mercati possiamo rassicurare Gianni, non possiamo... Presbite diventa tutti, forza. Meno male, no? Che diventiamo presbiti, sì, no, vuol sì. dire che invecchiamo bene. La presbiopia comincia a tutti purtroppo verso i 42-43 anni e se uno è ipermetrope lo sente un pochino di più e quindi obbligo di occhiali per lontano ma soprattutto per vicino. Adesso comunque si cominciano a fare delle cose molto belle anche nella presbiopia con i laser, per cui se uno vuole diciamo ridurre la dipendenza dell'occhiale lo può fare. E se volete saperne di più 800 24 00 24 per intervenire, i messaggi al 349 238 6666. Adelina dalla provincia di Salerno è in linea con noi, ma io la invito ad andare a sentire i mercati, il meteo e poi a tornare con noi. Mi raccomando, come ogni giorno, vi invito caldamente a visitare il nostro Daily Lab. Essere e benessere. Puntata del dedicata al benessere visivo. Se vediamo bene, guidiamo bene, siamo più sicuri. Il 90% delle informazioni mentre siamo alla guida arrivano dalla vista, ma non ci stancheremo mai di sottolineare che la guida sicura dipende anche da altri fattori, dal nostro stile di vita generale. Professor Buratto, no al consumo, non bisogna bere, non bisogna evitare assolutamente l'uso delle droghe, mettersi in macchina solo quando si è riposati, evitare di parlare al cellulare, rispettare le regole. Potremmo fare una puntata ad hoc, ma ho Adelina che mi aspetta dalla provincia di Salerno. Buongiorno Adelina, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io volevo fare questa domanda. Io ho avuto un disturbo circa 3 anni fa, mentre ero alla guida, e che tuttora mi condiziona, nel senso che non è che abbia smesso di guidare, ma posso guidare solo nel centro cittadino. Se già devo prendere anche, imboccare una tangenziale, un'autostrada, non lo faccio. Se ho tentato di farlo, ho avuto molto timore. Il disturbo è questo: io avevo dato il cambio alla guida a mio marito, eravamo in autostrada, nel primo pomeriggio, dopo aver consumato un panino con dell'acqua minerale, e mio marito era accanto a me, mentre guidavo ho imboccato una galleria, e appena l'ho imboccato ho avuto un disturbo visivo che potrei riferire tipo un ribaltamento dell'immagine, comunque qualcosa che mi ha immediatamente costretto a lasciare il volante. Per fortuna mio marito l'ha acchiappato al volo, ecco, quindi, perché altrimenti, e da lì lo spavento, non so che cosa Adelina avrei fatto. Adelina, lo spavento è stato tale che Adelina sta mettendo in atto quello che gli psicologi chiamano proprio il levitamento. Ma senza, Adelina ci suggerisce questo spunto per sottolineare ancora il disagio che molti avvertono, me lo stanno scrivendo, quando si entra in galleria. Ci sono c'è qualcuno che rischia di più? Si possono evitare queste situazioni di disagio? Che cosa si può fare, professor Buratto? Beh sì, certamente la galleria non è il posto migliore per guidare, soprattutto perché c'è un passaggio dalla luce al buio e poi dal buio alla luce. Bisognerebbe che le gallerie fossero illuminate meglio, questo non c'è dubbio. Poi se qualcuno ha l'occhiale, bisognerebbe per esempio che avesse la possibilità di sollevare l'occhiale da solo, intendevo, sollevare la parte, diciamo, colorata dell'occhiale per lasciare la parte solo chiara. Bisogna poi naturalmente che abbia anche un adattamento veloce al cambiamento di luce. Ci sono certe persone che hanno più difficoltà di altre nei cambiamenti. Si può misurare questa capacità? Si può misurare, ci sono dei test fatti apposta. Professor Buratto, a volte vediamo proprio un po' annebbiato, perché ad esempio il mio parabrezza, mio marito dice che ha la cataratta incorporata perché è sempre lurido, sporco dentro e fuori, ma nel caso a qualcuno capita di avere il parabrezza pulito, potrebbe essere invece un problema di vista, e mi riferisco alla cataratta. Oggi tra l'altro questo disturbo colpisce non solo le persone anziane ma anche sempre più i giovani, un disturbo che si può correggere. Si corregge molto bene, naturalmente ci vuole un piccolo intervento chirurgico. La cataratta consiste in un opacamento di una piccola lente che c'è all'interno dell'occhio. Questa lente, quando si opacizza, non c'è modo di farla, diciamo, far vedere bene una persona con occhiali o lente a contatto. Bisogna proprio procedere alla sostituzione di questa lente e si mette un cristallino artificiale. Adesso di recente abbiamo introdotto nella chirurgia anche il laser, un laser a femtosecondi che sta rivoluzionando un pochino tutti i concetti di chirurgia dell'occhio. E questo laser, assieme alle lenti intraoculari, consente di ottenere un'ottima riabilitazione visiva, tanto è vero che in genere chi viene operato di cataratta non ha problemi significativi nella guida e riesce con facilità a ottenere, diciamo, la patente di guida, sempre che non ci siano altre patologie. Certo. Naturalmente a livello dell'occhio. Professor Buratto, molti ascoltatori mi stanno scrivendo che hanno difficoltà a guidare di notte, soprattutto se sono ascoltatori che si sono sottoposti a interventi di chirurgia refrattiva per correggere la miopia. Insomma, sembra che la guida notturna sia un po' il banco di prova, no? Di chi si è sottoposto a questo tipo di intervento. Dobbiamo mettere in conto, sono degli interventi che sono stati migliorati recentemente dai nuovi laser? Diciamo che questi problemi di solito ci sono sempre quando ci sono due situazioni: o la miopia preesistente era molto forte, per cui è stato fatto un trattamento laser, diciamo, che ha cambiato parecchio la conformazione dell'occhio, oppure sono persone che hanno una pupilla che si dilata moltissimo di sera quando c'è buio. E se poi le due cose si sommano, cioè una persona ha una pupilla che si dilata molto al buio e ha trattato un difetto visivo importante, questo è possibile che succeda. Non succede, diciamo, se il difetto è un po' più leggero, se la pupilla è normale. Cioè, la visita preoperatoria serve proprio per quello. Una bella visita fatta bene prima dell'intervento può già far prevedere alla persona se avrà dei disturbi oppure no. Quindi è importante fare le cose fatte bene, come sempre. Ivan da Bergamo ci chiama all'800240024. Buongiorno Ivan, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. La mia domanda è abbastanza semplice. Io ho 50 anni e sono ipermetrope e presbito ormai da un po' di anni, almeno da 6 o 7. Quello che mi chiedevo, io uso le lenti a contatto proprio per ovviare il problema di avere due occhiali, perché sennò è un problema. Però mi chiedevo, è il caso che io faccia un intervento al laser o è meglio che aspetti ancora qualche anno prima che si assesti tutto? E anche se è sicuro e si può fare un intervento al laser che sistemi sia la presbiopia sia l'ipermetropia, o se è fattibile, magari non è fattibile nemmeno. Insomma, due piccioni con una fava. Sì. Diciamo che è più facile, diciamo, correggere bene l'ipermetropia, nel senso che se il difetto non è forte, diciamo nell'ambito di 1, 2, 3 diottrie, i trattamenti laser danno degli ottimi risultati. Se il difetto è più forte, allora bisogna, diciamo, utilizzare qualche cautela in più. La presbiopia è anche possibile correggerla, ma con un pochino più di difficoltà in questi occhi, o perlomeno bisogna ricorrere a tecniche un po' particolari. Nella presbiopia si stanno facendo comunque degli interventi molto, molto precisi, molto accurati, con dei notevoli miglioramenti rispetto agli anni precedenti. Certamente, mentre nella miopia, nell'ipermetropia, nell'astigmatismo abbiamo 15, 20 e anche più anni di esperienza, nella presbiopia è un'esperienza che è un pochino più ridotta, che è di 1, 2, 3 anni, quindi sono tecniche ancora, diciamo, in certi casi funzionano molto bene, ma in certi casi sono ancora diciamo, da rimandare per attendere, diciamo, metodiche più perfettibili. Ma volendo fare questo intervento, meglio intervenire subito, cioè quando il disturbo si manifesta, oppure si può aspettare? È meglio aspettare, che così diamo tempo anche a questa tecnica di avere un pochino più anni alle spalle. Parliamo della presbiopia? Sì. Beh, dipende, ci sono delle modalità operatorie che non impediscono di ritornare sopra in un momento successivo, per esempio, perché la presbiopia, lo sappiamo, è progressiva, dai 40 ai 60 anni aumenta. Dipende anche dall'esigenza delle persone, se la persona deve solo leggere o solo guidare, oppure se ha una vita più generica. Per esempio, se ha una vita più generica, nel senso che usa un po' la vista da lontano, un po' la vista da vicino, ci sono delle metodiche molto, molto valide per la correzione. Se uno vuol vedere bene da lontano, bene da vicino, senza occhiali, ha 50 o 60 anni, beh, diventa un pochino più difficile. Essere e benessere. 12 milioni di miopi in Italia, molti di questi staranno guidando, sono alla guida, molti staranno ascoltando anche Radio 24. Professor Buratto, la miopia è proprio il disturbo che ci dà più fastidio quando siamo alla guida, che cosa si può fare? Eh sì, perché il miope tipicamente è una persona che vede poco da lontano se non è corretto bene, quindi prima di tutto avere degli occhiali o delle lenti a contatto bene in ordine. Se poi uno si è stufato di portare queste, chiamiamo, protesi, può ricorrere a trattamenti laser. I trattamenti laser si eseguono attualmente con molta precisione, sono attualmente interventi sicuri, ben collaudati. Lei pensi che sono stati fatti fra i 40 e i 50 milioni di interventi di miopia con il laser in questi ultimi anni, quindi sono numeri molto alti. Pensi che questa chirurgia laser si fa da 20 anni, quindi le laser ormai hanno subito parecchie evoluzioni, sono molto perfezionati, specialmente se il chirurgo si serve del laser a femtosecondi e del laser ai cimi ricombinati, riesce a ottenere dei risultati veramente molto buoni. Comunque, secondo me, quello che è più importante di tutto è che prima di decidere un intervento la persona si faccia fare una visita molto accurata, e allora da quella si può capire bene se può avere un ottimo risultato, un buon risultato, un discreto risultato, oppure se è meglio addirittura non operare perché può avere un risultato negativo. Professore, Gli occhiali, chi porta gli occhiali deve fare anche i conti con l'airbag. Per la sicurezza, meglio mettere gli occhiali o le lenti? Diciamo che le lenti a contatto con l'airbag non hanno nessuna, diciamo, conseguenza. Se si apre un airbag e uno ha degli occhiali con montature metalliche, queste si possono rompere, possono fare dei grossi danni. Bisognerebbe perlomeno utilizzare occhiali materiale plastico, tipo carbonio o cose di questo genere. Allora, ecco, quindi è un consiglio che possiamo dare ai policarbonato, nostri ascoltatori. Volevo dire, scusami, è un consiglio che possiamo dare agli ascoltatori. Occhio anche alla montatura. Assolutamente. Che deve essere importante nel caso di apertura di airbag. Per le montature, soprattutto quelle che hanno del metallo, possono risultare davvero, davvero pericolose. Mi sembra che abbiamo Davide da Modena. Buongiorno, sì. Davide. Buongiorno. Lei porta gli occhiali, Davide? Certamente, porto gli occhiali. Io ho una importante ipermetropia. Sì. Infatti ho delle lenti positive con una leggera ambliopia, una è un più 7, l'altra è un più 7,5 e sto valutando proprio in questi giorni la possibilità di intervenire con delle lenti inserendo al posto del cristallino, se non sbaglio, si chiamano lenti facchiche. Esatto. Multifocali, perché con una... Davide è preparatissimo! Le quali mi hanno detto che però danno dei grossi problemi, ad esempio di notte durante la guida notturna, perché compaiono degli aloni. Quindi proprio per questo volevo sentire. Quanti anni ha Davide? Mi 45 anni. Un ragazzo. Dunque... proprio, grazie, molto gentile. Proprio per questo volevo chiedere al professor Buratto quale, se l'intervento di inserendo queste lentine al posto del cristallino era indicato nel mio caso, e anche eventualmente un centro o qualcuno tra i migliori dove andare, sì, vicino alla mia zona eventualmente. Diciamo che lei aveva iniziato il discorso dicendo lenti facchiche. Lenti facchiche vuol dire che si mettono senza togliere il cristallino suo, e non esistono lenti facchiche multifocali, quindi se lei ha intenzione di mettere delle lenti multifocali deve sostituire il suo cristallino con un altro. 45 anni può essere una età anche idonea per fare una cosa di questo genere, bisogna valutare un pochino l'occhio, eccetera. Certamente il cristallino multifocale per l'ipermetrope è una grossa utilità, perché consentirebbe di vedere sia lontano che vicino senza occhiali. Diciamo che però se uno passa tante ore alla guida notturna, queste lenti vanno utilizzate un attimino con un po' di cautela, perché il problema della guida notturna effettivamente si può presentare. È anche vero che nelle persone giovani, diciamo, l'adattamento visivo e cerebrale è molto buono, e spesso questi piccoli disturbi che possono essere conseguenti all'uso di queste lenti si attenuano molto nel tempo, fino quasi a scomparire. E durante la guida occhio ai colpi di sonno, tante volte l'occhio si chiude, noi non ce ne rendiamo conto, è molto rapido. E in linea con noi abbiamo il professor Ferini Strambi, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Professore, i colpi di sonno sono veramente un problema su cui anche la medicina del sonno sta lavorando da anni. Sicuramente un grosso problema, non dimentichiamo tra l'altro che una fetta consistente di incidenti stradali è proprio legata al colpo di sonno, quindi anche parecchi disastri poi a livello sul lavoro, proprio per persone che si addormentano, specialmente quelli che fanno dei lavori un po' particolari. Ma cosa fare? Sicuramente dobbiamo ricordare che la causa principale di questi attacchi di sonno è il fatto di non dormire in maniera sufficiente. Ci sono tanti soggetti che purtroppo riducono in maniera drastica quello che è il loro tempo di sonno, e poi la conseguenza è che chiaramente questi soggetti si addormentano facilmente. Questa non è una cosa molto rara. Io alcuni anni fa feci una ricerca nei conduttori di treni a lunga distanza, e la cosa che emerse era appunto quel fatto che questi soggetti, questi macchinisti, dormono molto poco, e quindi questo può chiaramente determinare poi questa facile tendenza all'addormentamento. Altra causa importante è il problema delle apnee durante la notte. Soggetti che russano e che fanno apnee durante la notte possono anche dormire 7-8 ore, quindi in questo caso non c'è un problema di quantità del sonno, ma di qualità, proprio perché le apnee determinano una continua frammentazione del sonno e quindi poi alla fine il soggetto, anche se ha dormito 7-8 ore, come se ne avesse dormite due. Quindi soprattutto, professor Ferini Strambi, come lei più volte ha ripetuto nel corso delle trasmissioni in cui è stato ospite, il colpo di sonno non va contrastato. Quando avvertiamo, no, la palpebra che cade, non facciamo non la lotta. Anzi, ecco. Se uno ad esempio alla guida deve assolutamente cercare di fermarsi, mettersi di lato, fare magari un riposino, a volte bastano 15 minuti, 20 minuti, per essere poi in grado di riprendere tranquillamente la guida. Evitiamo di fare quelle cose tipo, non so, ecco, darsi i pizzicotti in faccia. Sì, tirare giù il finestrino perché così l'aria fresca. Tirare giù il finestrino, la radio ad alto volume, ecco, tutte queste cose purtroppo non sono in grado di contrastare questa sonnolenza che arriva di colpo. Professor Ferini Strambi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Professor Buratto, quindi no alcol, no droghe, dormite bene, controllate la vista, che cosa possiamo raccomandare in più ai nostri ascoltatori? Parabrezza pulito, vista a posto. Con controlli regolari. Con controlli regolari, ci sono dei periodi della vita in cui è meglio fare un piccolo tagliandino. Beh, certamente. Per gli adulti, diciamo, intorno ai 40 anni. Si fa da bambino, bisognerebbe fare una visita al neonato, tanto per eliminare i problemi, diciamo, di nascita. Poi un altro verso i 3-4 anni per vedere lo sviluppo del bambino, poi prima della scuola. Poi nell'adolescenza per vedere eventuali insorgenze di miopia. Diciamo che fra i 20 e i 40 siamo tranquilli. È stato regolare, prima siamo tranquilli. Dai 40 in avanti, diciamo ai 40 anni un'altra visita, verso i 45-46 un'altra, e poi se tutto va bene si può rimandare di qualche anno, ma se poi ci sono dei problemi visivi o comunque affaticamento visivo o comunque disturbi nel lavoro, nella guida, nella lettura, eccetera, diciamo che occorre rivolgersi allo specialista. Prendiamoci cura quindi dei nostri occhi. Se abbiamo un difetto visivo che abbiamo corretto, recuperiamo, ogni tanto facciamo dei controlli perché sia corretto bene. Bisogna che ciascuno di noi pensi a tutto quello che fa con i propri occhi dal mattino alla sera, che analizzi momento per momento quello che fa veramente dal risveglio al momento che va a letto con i propri occhi. Allora sì che dà un valore alla propria vista. Allora, questo è il compito che vi lasciamo per oggi. A domani, un saluto al professor Buratto e un saluto a voi. Vi aspetto domani. Essere e benessere.